Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchese. Domani ricorre il 20° anniversario della strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992, quando la mafia uccideva il giudice Falcone, la moglie Francesca Borvillo e alcuni uomini della scorta. Ho dunque pensato di ricostruire i suoni, le emozioni e le testimonianze. Sentirete i punti radio dei carabinieri e della polizia nei minuti successivi alla strage, il racconto e dunque gli occhi del mafioso Gioacchino La Barbera, che segue il corteo di macchine blindate dall'aeroporto di Palermo Punta Raisi fino a giù allo svincolo Capaci Isola delle Femmine, e ancora l'autista di Falcone Giuseppe Costanza, le idee antimafia di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, la voce indimenticabile del capo del pool dei magistrati antimafia di Palermo Nino Caponnetto, e poi i funerali di Stato, le dure proteste degli agenti di scorta e dei loro familiari che vedevano morire amici, colleghi, i loro cari sotto i colpi della mafia stragista. Un film, quello che va in onda oggi a Radio 24, fatto di suoni senza alcun commento, perché davanti alle barbarie spesso non bastano più neanche le parole per raccontare l'orrore. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. Che è bloccato in entrambe le direzioni, e il fatto che è verificato allo svincolo di Capaci, cioè alle Femmine, un po' prima dello svincolo di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato. Il terreno sventrato, vi do notizia appena possibile, perché il ferito lo stanno portando lì in questo momento, Cambio. Perché hanno utilizzato centinaia e centinaia di esplosivo. Il magistrato, qualcuno dice che è stato portato lì ancora di più. Confermo, box sotto iniziato. Confermo. Ma l'ha richiesto un sacco di ambulanze, i feriti sul posto. Sì, va bene, le ambulanze sono arrivate, non nulla. Spiegatene ancora, ci sono un sacco di feriti. Sì, ma quanti feriti sono? Dovete controllare tutti, perché a seguito di attentato avvenuto in Palermo, attentato di Nametardi in Palermo, controllare tutti quelli che escono dall'autostrada proveniente Palermo. Ricevuto. Quella giornata io personalmente pensavo che non doveva funzionare, perché ho visto i preparativi, anche se sono arrivato alla fine, diciamo, erano molto, ma molto rozzi. Io mi trovavo circa un chilometro, perché ho accompagnato il corteo delle macchine blindate fino a un certo punto, al cavalcavia, circa 800-1000 metri prima di dove è scoppiata appunto la bomba. E mi ricordo, ho visto una grande fumata, e a distanza di circa mezz'ora, in macchina, avevo la radio, ho sentito che il dottor Falcone si era salvato. E poi man mano, sempre alla radio, ho sentito della morte del Falcone, della dottoressa Morvillo e la sua scorta. Io facevo da staffetta, io avevo il compito di avvisare tramite un telefonino e Gioè, che si trovava appunto assieme a Brusca in una collina col binocolo, avevo l'incarico di seguire la staffetta delle macchine blindate fino a cavalcavia, ripeto, 800 metri prima del fatto. Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente, c'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci, dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale, la mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione, non lo so. Non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni. Sono rimasto solo io, Antonio Montinaro, che era da due anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso: Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stata la prima volta che ha fatto la scorta Falcone, che purtroppo ci ha rimesso la pelle. Il rimpianto è di essere stati ad un passo da un,